Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Oggi siamo tornati nel nostro studio abituale qui a Milano, si è chiuso per oggi Vinitale, avremo ancora una coda di interviste sul settore, ma soprattutto avremo ospite l'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. In realtà è stato ospite della radio circa mezz'ora fa, un'intervista in inglese che adesso stiamo traducendo. È a Milano, si trova a Milano per un incontro presso in Credit Suisse per la Global Megatrends Conference. In realtà abbiamo parlato con Trichet soprattutto della situazione attuale e anche delle sue responsabilità, visto che lui era presidente della Banca Centrale Europea nel momento in cui la crisi è scoppiata, 2008, e la BCE fu accusata al tempo di guardare troppo al pericolo inflazione, quindi mantenere i tassi troppo alti e troppo a lungo, non capendo quello che stava capitando e cosa sarebbe poi successo. E la sua presidenza fu accusata di essere una presidenza troppo filo tedesca, troppo filo Bundesbank. Ne abbiamo parlato con lo stesso Trichet, appunto, e alle 18 ascolteremo l'intervista. Anche chiaramente non abbiamo ragionato solo del passato, ma anche e soprattutto del presente, delle prospettive future dell'area euro, nel giorno in cui il ministro dell'economia Padoan ha detto che la situazione, il quadro economico sta migliorando, la fiducia si sta consolidando. La battaglia di conquistare famiglie e imprese, ma anche precisato che nonostante il quadro economico internazionale sia più favorevole, sarà difficile tornare a una situazione precedente alla crisi. Non è possibile né auspicabile, questo per quello che riguarda lo scenario economico. La Confindustria oggi ha diffuso il dato sulla previsione per il primo trimestre, scusatemi, più 0,2%. Il commercio con l'estero è andato bene anche a febbraio, più 7% rispetto a un anno prima e più 4,5% rispetto al mese di gennaio. C'è un dato interessante anche da parte di Nomisma, perché segnala che l'aumento dei mutui nel 2015 potrebbe essere quest'anno del 30% a 32 miliardi di euro erogati. Sempre sulle case, Nomisma fa notare che vi saranno più vendite nel 2015, ma prezzi ancora in calo, e attesa un'ulteriore flessione del 3% nei prezzi degli immobili, risaliranno solo a partire dal 2017. Su questi dati, e riferendosi a questi dati, è oggi dedicato il commento, come sempre, assieme a Radio Dimensione Suono e Radio 24, i 100 secondi di Radio 24. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. È un'altra giornata di dati positivi sul fronte economico. In primo luogo c'è il buon andamento di un indice che si chiama IFO e che misura il livello di fiducia sulle prospettive economiche delle imprese, degli imprenditori tedeschi. L'indice IFO a marzo ha registrato un rialzo superiore alle attese ed è tornato ai livelli massimi dalla scorsa estate. È un segno abbastanza evidente che per gli imprenditori tedeschi le cose stiano andando un po' meglio e che guardano con più ottimismo e fiducia ai prossimi mesi. Sul fronte italiano è l'Istat invece a segnalare i successi del nostro commercio estero, che a febbraio negli scambi al di fuori dell'Unione Europea ha messo a segno una crescita del 7,1% rispetto all'anno scorso. È un risultato ottimo e che conferma la forza di molte imprese italiane sui mercati internazionali. In questo clima vanno registrate anche le parole pronunciate ieri dal ministro dell'economia Padoan, che pur consapevole che la nostra economia non ritornerà ai livelli pre-crisi, ha sottolineato due cose. Da un lato il fatto che l'Italia ha conquistato e sta mantenendo la fiducia dei mercati e delle istituzioni internazionali, dall'altro che questo clima di fiducia deve ora rapidamente estendersi, affermarsi anche tra le imprese e le famiglie per sfruttare al meglio questo squarcio di luce sulla via della ripresa, possibilmente con una crescita del PIL più solida dello 0,2%, come oggi indicato dal Centro Studi Confindustria. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e poi il sito di Radio 24 dove scrivere sia per quello che riguarda Facebook, è un sito che permette di dialogare anche con chi scrive su Facebook e Twitter. Vedo alcuni messaggi su Trisce, ma non avete altri ospiti da invitare rispetto a chi, con i danni che ha fatto Trisce? Beh, lo invitiamo perché vogliamo parlare, danni e la sua valutazione. Vogliamo capire e abbiamo cercato di capire anche se vi sia un rimorso, un rimpianto, una autocritica che vuole fare l'ex presidente della Banca Centrale Europea, mica un appestato. Fermo restando che l'abbiamo molto criticato in quegli anni e anche nell'intervista, dateci il tempo di tradurla, la stiamo traducendo, non è che siamo andati proprio leggeri. Comunque, per quello che riguarda invece i titoli di borsa, visto che la borsa sta per chiudere tra un quarto d'ora, meno 0,80% Milano, segnalo che oggi è di nuovo in ripresa Pirelli, più 0,50% a un prezzo sempre stabilmente sopra il livello dell'OPA, 15,54 euro. Bene Tenaris più 1,60, Saipem più 0,90 come Mediolanum e A2A, Unipol Sai più 0,50. Fronte opposto è Steam Microelectronics meno 4,20, Autogrill meno 2,60, Finmeccanica meno 2,5, Moncler meno 2,30, Mediaset meno 1,80, Luxottica meno 1,6, Tods perde 1,5% come Telecom, Buzzi meno 1,40 come Ferragamo, l'1,30 lo perde CNH, l'1,20 Atlantia ed Enel. Allora, vedo alcuni messaggi sul fatto che, insomma, sui dati positivi vi riempite la bocca. Allora, bisogna intendersi su questo, cioè, a me di chi scrive che questi dati li diamo perché siamo a favore di Renzi, non me ne frega nulla. Però è chiaro che un conto è il dato, i timidi segnali che stanno arrivando di una leggera ripresa dell'economia, altra cosa è la situazione personale che ognuno di noi vive. E capisco anche che possa far arrabbiare sentire dire beh, migliora la fiducia delle imprese, migliora la fiducia del clima economico, c'è qualche segnale di ripresa, se poi tu nulla di tutto questo vedi nella tua attività, nella tua gestione di un budget familiare, nei tuoi soldi. Però dobbiamo occuparci dei dati aggregati e quindi capisco benissimo chi dice ma io questa cosa non la vedo. Vediamo, se tutto verrà confermato dovrebbe vederla anche lei. Altra cosa invece, questa la capisco meno, in chi sembra quasi insoddisfatto, sembra quasi arrabbiato perché ci sono dei segnali di ripresa economica. Ma dobbiamo tutti augurarci che queste previsioni, che questi segnali ancora non sufficienti, ancora non complessivi, si rafforzino. Cioè, chi è che tifa contro? Nessuno. Per cui alcuni sembra quasi che abbiano così più piacere nel ricevere brutte notizie che buone notizie. A questo proposito, visto che lo citavamo, il ministro Padoan, che di nuovo è tornato sul tema, lo ha fatto questa mattina intervenendo all'apertura del Salone del Risparmio. Focus Economia sarà in diretta domani dal Salone del Risparmio che si tiene a Milano. Ha detto che la fiducia si sta consolidando, appunto la battaglia di conquistare famiglie e imprese. L'economia europea e l'economia italiana stanno entrando in una finestra macroeconomica di opportunità. ma questa finestra di opportunità non ci condurrà in una situazione come quella in cui ci si trovava prima della crisi. Questo non è possibile e non è neanche auspicabile. Dove andremo a finire con questa finestra dipenderà da quali azioni il governo e i governi intenderanno prendere. L'uscita dalla recessione deve essere un'occasione indispensabile e unica per un forte miglioramento qualitativo e quantitativo della struttura dell'economia. Lo sforzo del governo, quindi, di fronte a condizioni macroeconomiche più favorevoli, non diminuisce, ma anzi si intensifica. C'è evidentemente un forte legame fra stato di fiducia e scelte dei risparmiatori. La fiducia piano piano si sta consolidando. L'Italia sta conquistando e mantiene la fiducia dei mercati, ha ottenuto in misura tangibile la fiducia delle istituzioni internazionali. Deve vincere definitivamente la battaglia della fiducia dei suoi stessi cittadini. Ancora un paio di notizie. Allora, per quello che riguarda la Grecia, oggi non ci sono grosse novità, anche se la Banca Centrale Europea ha alzato a oltre 71 miliardi la liquidità di emergenza messa a disposizione delle banche greche per appunto situazioni emergenziali, mentre il ministro della giustizia greco Nikos Paraskevopoulos ha smentito le voci secondo cui il governo di Atene avrebbe intenzione di confiscare i beni dei tedeschi in Grecia, tanto si è arrivati, a titolo di risarcimento per le atrocità commesse dagli occupanti nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nessun cittadino greco vorrebbe la confisca di uno storico istituto educativo culturale come il Goethe Institute di Atene, ha detto appunto il ministro greco. Nel giorno in cui, secondo il Financial Times, il governo greco starebbe prelevando fondi dalle casse del servizio sanitario dell'azienda pubblica che gestisce la metropolitana di Atene per far fronte alle sue necessità finanziarie tra l'altro dovrebbe essere finanziato a breve con 1,7 miliardi di euro il disegno di legge che prevede l'aumento di salari e pensioni minime. Il 9 aprile poi la Grecia deve rimborsare altri 450 miliardi di euro al fondo monetario internazionale. Secondo alcuni funzionari europei, al momento la Grecia non disporrebbe dei fondi per far fronte a entrambi gli impegni, cioè aumentare pensioni minime e salari come promesso da Tsipras anche in campagna elettorale, ma ripagare anche il Fondo Monetario Internazionale. L'ultimo dato lo hanno già ricordato i nostri GR24, comunque l'Ocse nella classifica della percezione della corruzione nelle istituzioni governative vede l'Italia al top tra i paesi, ahimè, Ocse. In Italia la percezione della corruzione nelle istituzioni governative locali sfiora il 90%. Seguono l'Italia, il Portogallo e la Grecia. La percezione più bassa è in Svezia, dove solo il 15% ha la percezione che vi sia corruzione nelle istituzioni locali e nazionali. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso, oggi, si è chiusa la 49esima edizione del Vinitaly. Ieri e lunedì eravamo in diretta dal Vinitaly, in Focus Economia e altri programmi di questa radio. Allora abbiamo raccolto varie interviste per fare un punto molto veloce del settore vitivinicolo italiano, che comunque con 10 miliardi di euro e 380.000, in realtà sono 700.000 addetti se si include l'indotto, rappresenta la prima voce in export per il settore agroalimentare. Allora, più rapidamente rispetto ai giorni scorsi, oggi la volta, ieri abbiamo avuto i grandi produttori come fatturato, lunedì la parte più delle istituzioni. Oggi vi facciamo ascoltare brevemente alcune interviste a produttori minori. Iniziamo da Donna Fugata. Minori non vuol dire minori per qualità del vino e per importanza, vuol dire minori come fatturato. Donna Fugata, 15 milioni di euro quasi di fatturato nel 2014, 2 milioni di bottiglie prodotte. Una quota di export non altissima, al 30%, e infatti con Giuseppe Rallo di Donna Fugata, abbiamo parlato proprio dei consumi interni italiani, con qualche bella sorpresa che è arrivata da questo Vinitaly, nel senso, adesso si arrabbieranno gli ascoltatori, ma i consumi italiani sono un po' ripartiti nel 2014, i consumi di vino in questo caso, voi direte per la disperazione, può essere, e ce l'ha confermato appunto Giuseppe Rallo di Donna Fugata. Partiamo dalla buona notizia, che è quella dei consumi interni, che sono cresciuti, almeno per quello che possiamo registrare noi, già nel 2014. Abbiamo chiuso con un più 10 in Italia, un dato importantissimo, voglio dire tutti i canali, più 7% il settore della ristorazione. Cioè noi abbiamo brindato e strabrindato dopo anni di meno 15, meno 20. Questo vuol dire che gli italiani cominciano a vivere di nuovo in una maniera diversa, più rilassata, più ricca, se vogliamo, perché andare al ristorante non è cosa facile, no? Il 2015 naturalmente partiva con un punto interrogativo, siamo un più 12 sul mercato italiano e la ristorazione non ha ancora il più 7 del 2014, ma siamo su un più 2, più 3, quindi importantissimo. Vanno forte i nostri vini di fascia alta, cioè quelli che noi vendiamo dagli 8 euro a salire, Franco Cantina, che in ristorazione poi vanno anche a un certo prezzo. Beh, di sotto è 300-400%, per cui siamo intorno a un vino cash 8 euro inizia a essere al ristorante su 35-40 euro. Esattamente, esattamente. Questo vuol dire che c'è, che gli italiani tornano a consumare, che gli italiani tornano a uscire di casa e a scegliere comunque vini di grande soddisfazione, vini importanti, eleganti. Mi sembra importante. No, questo positivo. È molto importante anche perché poi ci concentriamo sempre sull'export, perché per la gran parte dei produttori di vino italiani rappresenta, o meglio, quelli più strutturati, rappresenta ormai più della metà del fatturato. Però è giusto ricordare anche come vanno i consumi interni, anche perché voi siete molto presenti nella grande distribuzione, cioè le catene commerciali, supermarket e quant'altro. Noi ci sciocchiamo sempre un po', no? Quando parliamo di grande distribuzione, le aziende pensano di non poter presidiare bene i due canali, il canale della distribuzione organizzata, il canale della ristorazione. È fattibilissimo, senza dimenticare che in Francia l'80% del vino viene distribuito nei canali della distribuzione organizzata, quindi l'Italia rappresenta sempre un'eccezione. Noi come Donna Fugata siamo presenti su entrambi i canali, in maniera mirata, oculata, mantenendo il posizionamento, mantenendo il livello dei prezzi. 14 milioni di fatturato diviso 2 milioni di pezzi sono un prezzo medio di 7 euro Franco Cantina. Non mi sembra una roba... Che è abbastanza alto, anche perché la media di quello a cui esce, per esempio, un vino come il Chianti è sotto i 2 euro, e questo non fa delle volte bene al settore. Ma comunque restiamo invece sul fronte export. Sì. Contate di aumentare la presenza, e se sì, dove? Sì, noi siamo presenti in 60 paesi, quindi presidiamo, diciamo, i mercati esteri in maniera abbastanza ampia. Abbiamo segnali da tante parti. Oggi sicuramente l'euro debole ci avvantaggia soprattutto nei confronti del nostro primo paese, che è quello degli Stati Uniti. Siamo tutti lì a cercare di tirar fuori il massimo, ma non dimentichiamoci che già l'Italia ha fatto grandi passi avanti, abbiamo superato la Francia, siamo i primi a esportare negli Stati Uniti. Insomma, non è che si riesca a fare così tanti passi avanti anche se i prezzi diventano un po' più vantaggiosi. Non dimentichiamoci che il prezzo non è l'unica leva. No, certo. D'altra parte io ho una grande pena nel cuore, che è la Russia, perché è stato un mercato che dal fondo della classifica è arrivato ai primi 10 paesi per tutti noi che esportiamo, e oggi avere uno zero tra le statistiche è una cosa che veramente ci dispiace da morire. Quindi siamo qui al Vinitaly anche per questo, per parlare con i nostri importatori russi e capire una strategia per mantenere delle bandierine, no? Per tenere lì un segno della nostra presenza su un mercato che prima o poi tornerà a essere quello che era. Il vostro settore va benissimo. Mediobanca, nell'ultimo rapporto prima del Vinitaly, segnalava che è l'unico settore che ha visto aumentare gli investimenti in questi anni più 10%. Siete bravi, i fatturati crescono, le quote, anche se sul valore va ricordata una piccola cosa, noi abbiamo superato i francesi come volumi complessivi, nel valore loro sono ancora al doppio nostro, a dimostrazione che va bene le bottiglie che vendi, ma è anche quanto le vendi che non è indifferente. Però qual è l'errore, lo stiamo chiedendo a tutti, che rischiate di commettere? Cioè, non vorremmo che un eccesso, diciamo, di autocompiacimento vi portasse a sedervi sugli allori. Puntare sugli investimenti è sempre una cosa importantissima. Investimenti che non sono solo di natura strutturale, no? Ma ci sono anche quelli che facciamo di tipo un po' più soft, no? Tipo la sperimentazione sui vitigni autoctoni, ne vogliamo parlare. Anche questi sono piccoli investimenti che possono costare anche poco a un'azienda, ma che per esempio alla Sicilia, a un'azienda in Sicilia, sta dando grandi soddisfazioni. Verranno fuori nuove varietà, verranno fuori nuovi cloni di Nero d'Avola, di Catarratto, di quei vitigni che oggi apprezziamo, ma che domani saranno ancora più belli, ancora più versatili, ancora più interessanti per il mercato. Piccoli investimenti mirati, quindi sempre qualità, innovazione. Questo per me è fondamentale. E poi dico, uno dei leitmotiv della mia azienda è la redditività. Cioè, noi ci siamo sempre orientati a tenere alta la redditività e a migliorare la redditività. Non penso che questo sia stare seduti sugli allori. E dalla Sicilia alla Sardegna, sempre con dimensioni non grandi, mi riferisco alla cantina Argiolas, 15 milioni di euro di fatturato, 2 milioni e mezzo di bottiglie, quota export anche qui non altissima per essere il settore del vino, 35%. Ne abbiamo parlato con Valentina Argiolas, che è la responsabile anche della parte export dell'azienda, e anche qui, oltre che l'export, di nuovo i consumi interni. Sicuramente l'euro così debole ci aiuta naturalmente, soprattutto nel mercato americano, che è visto, per quanto riguarda il mercato del vino, quello come quello più promettente per il 2015, e noi confermiamo assolutamente questa tendenza. Saranno i mercati storici, i mercati classici per il vino italiano, quelli che daranno sicuramente più soddisfazioni, quindi Stati Uniti, Germania, UK e tutta la parte dell'Europa. Purtroppo naturalmente anche noi soffriamo delle situazioni internazionali di crisi, pensiamo a quello che è successo in Russia, che era invece uno di quei mercati sino ad ottobre del 2014 che stava crescendo in maniera esponenziale più rapidamente rispetto ad altri. Arrivano delle lettere, sappiamo, email abbastanza preoccupanti, e purtroppo lì, se non cambia la situazione internazionale, politica ed economica, non c'è uno spiraglio di speranza, di ricrescita. E sul fronte dei consumi interni invece? Noi siamo soddisfattissimi perché siamo riusciti a chiudere il 2014 con un più 10% in Italia, quindi significa che c'è una ripresa, naturalmente un maggiore nostro sicuramente lavoro nel mercato, quindi viene seguito più da vicino, siamo più presenti rispetto al passato, però è anche vero che i ristoranti stanno iniziando a sorridere, non a piangersi più addosso, la gente sta iniziando ad uscire, quindi sicuramente sarà uno di quei mercati che anche nel 2015 ci darà buoni risultati. Qual è il rischio che corre il vostro settore in questo momento, dove i numeri sono buoni, i fatturati sono buoni, gli investimenti sono buoni, siete un po' un'isola felice nel comparto, nei vari settori produttivi di questo paese? Sì, il rischio è quello di un po' lasciarsi, rilassarsi, ecco. Noi non l'abbiamo mai fatto, anche perché veniamo anche da una regione abbastanza difficile, una regione che non ha mai goduto di notorietà a livello internazionale, quindi probabilmente il lavoro che deve fare la Sardegna all'estero per presentarsi, per farsi conoscere, è 10 volte superiore a quello che fa una regione più nota per presentare i propri vini. Quindi noi non abbiamo questa tendenza, anzi, noi soffriamo molto, siamo abituati a soffrire, diciamo che siamo una regione abituata a soffrire. Quindi sappiamo cosa vuol dire essere presenti all'estero, ma anche con quanti sacrifici siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi. Quindi difficilmente ci rilasseremo, anzi, tutt'altro. Oh, un po' di ottimismo e anche di grinta, meteo, pubblicità, poi l'ultimo pezzetto, poi la borsa che è appena chiuso, praticamente il livello è meno 0,81% Milano, meno 1,16% Parigi, meno 0,90% Francoforte, meno 0,37% Londra, miglior titolo Tenaris, più 1,70%, peggior titolo ST Microelectronics, meno 4,44%, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina... E poi tutte le informazioni su Focus Economia sul sito di Radio 24, dove si può anche scrivere, commentare, fare blog, twittare, rispondere a Facebook e quant'altro. Minuti. Allora, sì, alcuni commenti sul prezzo da cui esce il vino, con cui esce il vino dalla cantina e poi al ristorante. Il ricarico più o meno è del 300-400%, ecco perché dicevo 8 euro, te lo ritrovi al ristorante intorno ai 30, 32 euro, ci sono anche ricarichi più alti, però insomma, più o meno quello è il ricarico medio, tra il 300 e il 400 per cento. Ultima intervista che vi faccio sentire sul vino, poi purtroppo, per fortuna, non ne parleremo più fino al prossimo Vinitaly, praticamente è quella di altri due produttori, ripeto, oggi è la giornata dei piccoli, ma che sono i più rappresentativi per le dimensioni che hanno le nostre aziende vitivinicole. E da un lato Gaetano Iacono, titolare di Valle della Cate, 2 milioni di euro di fatturato, 400.000 bottiglie prodotte, qui l'export raggiunge quasi il 70%, e dall'altra Guido Folonari, uno dei tre italiani assieme ad Antinori e Gaia che produce le 3B del vino italiano, Barolo, Brunello e Bolgheri, 500.000 bottiglie prodotte, fatturato di 5 milioni di euro e un 65% di vino esportato. In primo luogo a Gaetano Iacono abbiamo chiesto se l'Asia veramente possa essere uno scenario di riferimento, e se sia meglio o se non sia meglio invece presidiare già i punti di forza che uno ha. Restiamo a presidiare anche il mercato degli Stati Uniti, per noi rappresenta il primo mercato ed è un mercato sul quale non ci si può sedere sugli allori, un mercato sempre in continua evoluzione, adesso in grande ripresa, e il dollaro è quasi quanto l'euro, questo sicuramente favorisce, ma noi il compito sempre di stare sul mercato, promuovere i nostri prodotti. I mercati asiatici restano ancora un punto difficile, perché abbiamo bisogno ancora che il consumatore asiatico si innamori prima del cibo italiano come concetto di Made in Italy e poi del vino. Il vino non è il protagonista in questo momento. Anche per voi quest'anno, con l'euro debole, il mercato di riferimento più interessante resta l'area dollaro? Sì, assolutamente resta l'area dollaro, e c'è anche un moto al contrario. Non solo noi andiamo negli Stati Uniti con i nostri vini, ma per quello che riguarda la Sicilia, noi siamo molto visitati dagli americani che oggi sentono il bisogno di arrivare in Sicilia, quindi abbiamo anche la necessità non solo di andare come abbiamo sempre fatto, ma oggi anche di ricevere dentro le nostre aziende. Quindi il mio ruolo oggi non è solo di promozione sul territorio americano, ma di padrona di casa nella mia azienda, molto importante. Guido Folonari, area dollaro, mercati asiatici, è chiaro che lavorando con tre marchi o tre tipi di vino, per essere più precisi, Barolo, Brunello e Bolgheri, uno ha una certa facilità perché sono alcuni tra i vini italiani più conosciuti all'estero. Area dollaro e Asia? Allora, sicuramente lavorare in tre territori così importanti facilita la penetrazione dei mercati. L'area dollaro, dopo un decennio di difficoltà, di cambio forte nei confronti del dollaro, viviamo una nuova opportunità. Un'opportunità che si è presentata in un tempo fin troppo rapido. Ricordiamoci che a novembre il dollaro era 1,40, oggi siamo vicino alla parità, che porta ad un confronto con i nostri importatori. Nel caso specifico io lavoro con importatori negli Stati Uniti molto grandi e abbiamo già fatto riunioni per vedere come poter trasferire al mercato questa opportunità. Quando lei lavora con qualcuno che acquista i suoi vini, non può sicuramente andare a fargli conti in tasca, nel senso non può andare a dirgli il tuo margine è aumentato del 30%, per cui bisogna in partnership cercare di investire parte di questo margine sul mercato per far sì di sviluppare i volumi. Stando però molto molto attenti, perché non si può lavorare sul prezzo, le fluttuazioni delle monete sono impreviste, per cui non posso oggi andare a fare un sconto sul prezzo, perché poi nel giro di 6 mesi per qualcosa che può accadere nel mondo può cambiare. E questo è per il dollaro, però ci sono anche delle aree altre molto importanti. C'è il franco svizzero, ricordiamoci che la Svizzera è uno dei mercati più importanti per i vini di qualità, e il fatto che la Banca Centrale Svizzera abbia sbloccato il cambio e svalutato in del 30% è una cosa molto importante. E poi c'è il problema delle corone nordeuropee. La Danimarca, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia sono mercati importantissimi per il vino italiano, e le banche centrali di questi paesi non si sa per quanto riescano a sostenere il fixed change con l'euro. Se le banche centrali mollassero, così come ha fatto la Banca Centrale Svizzera, si aprirebbe un'altra grossissima opportunità. Per quanto riguarda l'Asia, io la distinguerei in due parti. C'è un'Asia matura, un'Asia, a me piace chiamarlo occidentale, che è formata dal Giappone e dalla Corea, che hanno ormai una cultura occidentale da decenni e sono vicini allo stile e all'alimentazione europea in generale e italiana in particolare. Poi c'è la nuova frontiera fatta dalla Cina e dai tutti i paesi emergenti, Vietnam, Thailandia, Indonesia. è una questione di cultura alimentare, hanno una cultura completamente diversa dal nostro, non esistono le pietanze, non esiste un primo, non esiste un secondo, non esiste un terzo, non esiste un fine pasto, per cui nella loro cultura il cibo si mette tutto insieme, tutto in mezzo al tavolo, e questo fa sì che l'abbinamento con i nostri vini è praticamente impossibile. Perché io sono stato adesso a Hong Kong e ci hanno portato ospiti in questo bellissimo ristorante cinese e ha ordinato 40 pietanze in mezzo al pasto, in mezzo al tavolo. Una bottiglia di Barolo, una di Brunello, una di Bolgheri, e alla fine il cinese, clienti importanti, dicevano mi piace o non mi piace. Per cui abbiamo veramente davanti a noi 50 anni almeno di educazione, certo, alimentare. Folonari, voi siete bravi, siete stati bravissimi tutti, ma il rischio di sentirvi un po' troppo bravi lo vedo solo io? No, io devo dire che fino ad oggi l'imprenditore italiano è sicuramente stato bravo, ma è stato molto individualista. Adesso penso che sia arrivato il momento di unire le forze e fare in modo che un sistema paese Italia finalmente marci tutti insieme. La settimana scorsa eravamo al Provine a Düsseldorf, lei cercava i francesi, entrava in un padiglione che si chiamava Francia e incontrava tutti i territori francesi presenti alla fiera, tutti gli stand bianco, rossi, azzurri. Poi lei cercava i produttori italiani, 25 enti diversi, l'ICE, le Camere di Commercio, il MISE, i consorzi di tutela, i consorzi all'export finanziati dall'OCM comunitario, e in ogni ente diverso lei trovava un produttore del Friuli Venezia Giulia, un produttore della Sicilia, uno del Piemonte. Allora, ogni tanto a me piace guardare le cose con gli occhi di uno straniero. Cosa capisce del sistema Italia? Quello che è. Questo era un po', secondo me, l'elemento essenziale, ossia unire a quello che sono le peculiarità e le capacità di ciascun imprenditore un sistema paese. Un sistema paese che deve passare attraverso una razionalizzazione di obiettivi, un tavolo aperto tra il governo e le associazioni imprenditoriali che ponga degli obiettivi, che si ponga un percorso e far sì di fare sistema. Noi facciamo le missioni in giro per il mondo, lei vede un pullman di francesi che arriva, scende il capo delegazione e 50 francesi si mettono in coda dietro il capo delegazione e vanno a incontrare i buyer. Lei vede un pullman di italiani che arriva, scende il capo delegazione, scendono 50 italiani pigliano 50 direzioni diverse perché ognuno tramite la sua conoscenza aveva qualcuno che gli presenta qualcuno che gli deve far conoscere un buyer che gli altri non devono conoscere. Ecco, noi siamo così, è la nostra forza ma il nostro limite allo stesso modo. E devo dire da questo punto di vista che noi spesso critichiamo la politica del governo, ma il vice ministro Calenda sta cercando di organizzare anche quello che è il finanziamento non solo del vino, delle varie fiere italiane all'estero. C'è un tentativo di razionalizzazione, poi ci sono problemi anche di carta costituzionale nel imporre, tra virgolette, come vorrei io, alle regioni di smettere di uscire da sole e andare su questi mercati. Gaetano Iacono, la vedevo particolarmente su questo, sorrideva, ma perché voi siete bravi, siete bravissimi, però cioè, fare sistema da noi ricorda più la schedina, prego. Una delle poche cose, la Sicilia è molto bella, però anche un territorio pieno di contraddizioni, ma una cosa è sicura: nel vino siamo diventati famosi in poco tempo perché abbiamo fatto sistema, i produttori si sono uniti sotto il cappello di Nero d'Avola mettendo un po' indietro il loro brand, poi dopo quando abbiamo capito che era l'ora di separarci per territori restando uniti abbiamo fatto anche queste. Oggi è questa la nostra sfida. Oh, adesso c'è il traffico e poi la borsa. A chi scrive: ma come fate a parlare dell'alcol e quando parlerete di altre dipendenze? Guardi, se non capisce che non solo è un settore produttivo da 10 miliardi di euro l'anno che dà da mangiare a 700.000 persone, ma è uno dei pochi settori produttivi che non ha avuto la crisi in questi anni grazie alle quote dell'export e quindi grazie alla bravura dei singoli produttori che si confrontano con cileni, con francesi, con australiani, non è che non abbiano concorrenza, Beh, io non so cosa farci. Noi abbiamo un ruolo di piccoli azionisti nella catena di comando della Pirelli e su questo diamo pieno supporto a Tronchetti Provera e all'OPA che viene realizzata, e poi potremo avere dei ruoli di sostegno finanziario nel corso dell'OPA, ma questo lo vedremo nelle prossime settimane. Noi abbiamo ridotto nel corso dell'anno passato la nostra partecipazione nel gruppo in modo anche significativo. La componente che abbiamo oggi la manterremo perché consente di poter far strutturare meglio l'operazione, e io credo che ci sia un grossissimo valore industriale in questa aggregazione. Dove c'è un valore industriale, noi ci siamo e sosteniamo l'iniziativa. In questo caso il Made in Italy non è l'elemento fondamentale, l'elemento fondamentale è l'impresa? Il Made in Italy significa anche la possibilità di poter mettere la nostra produzione, perché la componente di produzione rimarrà qua, ma anche il genio, l'intelletto, cioè l'Italia si distingue da moltissimi paesi che hanno forza finanziaria perché noi abbiamo forza di cervello. Questo era Carlo Messina, il numero uno di Intesa San Paolo, sull'operazione di Marco Tronchetti Provera, quindi l'OPA lanciata a 15 euro. L'ho fatto ascoltare perché chiaramente i soci italiani sono, oltre alla Camfin, oltre a Tronchetti Provera, nella Camfin anche Intesa San Paolo e Unicredit e poi Rosfnet. Il titolo oggi è comunque sopra il livello dell'OPA, più 0,71 a 15,60 euro. Di questo parliamo con i colleghi di Radio Cori Sole 24 ore. La borsa ha fatto meno 0,81% nel suo complesso. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Pirelli. Sì, Pirelli continua a trattare ormai da venerdì scorso, quasi una settimana, sopra quota 15 euro, che è quella a cui sarà lanciata l'OPA e della nuova Camfin, anzi del nuovo veicolo partecipato dai soci Camfin e dal nuovo partner di riferimento cinese ChemChina. Quindi il mercato sembra voler alzare il prezzo, insomma voler concedere il delisting del titolo soltanto a un prezzo più elevato rispetto a quello previsto. Si aspetta, quindi si scommette quindi su un possibile rilancio, anche se ovviamente la strada è ancora lunga perché l'OPA sarà lanciata soltanto dopo l'estate. Allora, titoli in calo: ST Microelectronics meno 4%, meno 4,44%, con tutto il settore. Sì, si tratta qui di un movimento in generale settoriale. Tutto il settore tecnologico in Europa è andato male, il sottoindice ha perso il 2,8% e tutti i principali gruppi, sia europei sia statunitensi, hanno perso terreno. C'è da sottolineare tuttavia che si tratta soprattutto in questo caso di realizzi, e per tutta la borsa ieri il FTSE libero aveva toccato i massimi dal 2010, oggi una battuta d'arresto che ha coinvolto e gran parte dei titoli che avevano guadagnato negli ultimi giorni. Ancora tra i titoli, Mediaset oggi debole, meno 1,70, Autogrill meno 3%, Finmeccanica meno 2,60, Moncler meno 2,30, Luxottica meno 1,80, Telecom meno 1,70, Ferragamo oggi debole, tutto il lusso meno 1,50%, Tod's meno 1,40, Buzzi Unici diciamo appunto meno 1,40, Atlantia pure, e Azimut meno 1,30, CNH meno 1,20, positiva Tenaris dell'1,70, Mediolanum dell'1,20, Saipem dell'1,1, A2A dello 0,70% e poi UbiBanca più 0,60, UnipolSai più 0,50, Pop Emilia Romagna più 0,20. Poco si sono mosse le popolari nonostante la riforma approvata ieri dal Senato, perché già si erano mosse nelle settimane precedenti. Invece mi interessa Rizzoli, Corriere della Sera. Sì, il titolo alla fine ha chiuso praticamente invariato, la variazione conclusiva è meno 0,09, è andato molto bene in mattinata, è comunque rimasto sotto i riflettori, sembra che si sia trovato la quadra tra gli azionisti di maggioranza per il rinnovo del CDA, in particolare per i nomi di vertice, e sembra quindi che ci sia via la conferma dell'amministratore delegato Pietro Scotti Giovane, mentre il nome per il presidente è quello di Maurizio Costa, nonostante sembri non piacere molto all'azionista di minoranza Urbano Cairo, che ieri insomma ha espresso giudizi non particolarmente esaltanti. Invece Carlo Messina, sempre il numero uno di Intesa San Paolo, ha detto: a noi non interessano le liste per il Consiglio di Amministrazione, ma ci interessa solo vendere la partecipazione nella Rizzoli Corriere della Sera entro il 2017. La mia priorità non è certamente quella di occuparmi di RCS. Io sono un grande creditore di questa azienda. Quello che mi interessa è che i piani industriali siano fatti nel modo corretto, ma certamente non sono né un azionista industriale né un azionista core, e non voglio essere. Non sono cose sulle quali io mi trovo in nessun modo a mio agio, questa ricerca di 10 persone che parlano dei temi delle aziende. Io ritengo che un'azienda come la nostra, che è creditore di la gran parte delle imprese italiane, è creditore di RCS e deve fare in modo che anche RCS abbia un percorso industriale importante, ma quello che deve essere proposto è dagli azionisti core, non certamente da chi ha una minima partecipazione. Così appunto il numero uno di Intesa San Paolo. Dopo il GR24 vorrei commentare ancora rapidissimamente Pininfarina e Mediaset, e poi avremo l'intervista a Jean-Claude Trichet. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Radio 24 per scrivere al programma. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, prima di ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato poco fa all'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, volevo chiudere con la borsa e due titoli ancora con Paolo Paronetto. Pininfarina, quindi andiamo sui migliori e peggiori in assoluto. Migliori in assoluto Pininfarina più 26%. Paolo. Sì, qui il titolo è stato sostenuto fin dall'inizio dalle indiscrezioni che parlano di un interesse del gruppo indiano Mahindra e Mahindra ad acquistare, a rilevare il controllo del gruppo. Il titolo è quindi schizzato fin dall'avvio. La società italiana al momento non ha commentato, si è limitata a ricordare che Mahindra è un cliente, le aziende hanno rapporti da molto tempo. Vedremo se la Consob chiederà chiarimenti. Secondo le indiscrezioni, un accordo sarebbe imminente proprio per rilevare il controllo di Pininfarina. E poi nel giorno in cui, giustamente, è corretto ricordarlo, è stata annunciata la fusione tra Kraft e Heinz, non c'entrano i gruppi italiani, ma questo creerà il quinto maggior gruppo alimentare al mondo. La nuova società si chiamerà Kraft Heinz Company e tutta l'operazione è stata pilotata dal fondo di private equity brasiliano 3G Capital, lo stesso che aveva acquistato Heinz in partnership con il finanziario Warren Buffett. Dicevo, al di là di questo, migliori e peggiori della giornata, oltre a Pininfarina, Fidia più 21% e Caleido Group più 18%, fronte opposto Novare meno 5%, Trevi Finanziaria meno 5,21%, BB Biotech meno 4,91%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. L'euro è 1,0960, quindi poco mosso. Dicevo, si sta svolgendo in questi minuti qui nella sede del Sole 24 Ore a Milano il Global Megatrends Conference di Credit Suisse, che vede tra i suoi relatori anche l'ex presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Prima dell'inizio della conferenza lo abbiamo ospitato, poco prima dell'inizio di Focus Economia, nei nostri studi. E il primo commento che gli abbiamo chiesto è stato quello relativo alle dichiarazioni rese anche oggi dal ministro dell'economia italiano Padoan, quando afferma che c'è una ripresa in corso, che la fiducia si sta consolidando, anche se sarà molto difficile tornare ai livelli pre-crisi. I will certainly share the view that we are now in a situation where the recovery is there. Vorrei condividere la visione secondo la quale possiamo dire che nello scenario attuale, nella situazione corrente, effettivamente si può parlare della presenza di una ripresa. Le previsioni pregresse sono riviste al rialzo, questo anche per quanto riguarda la BCE. Le nuove proiezioni infatti sono migliori e si può dire che lo stesso avverrà a livello di OCSE, Fondo Monetario Internazionale. Effettivamente adesso i vari paesi hanno effettuato delle modifiche, però effettivamente possiamo dire che il retaggio naturalmente negativo dei mutui subprime e del rischio sovrano va svanendo. Per quanto riguarda l'Europa e anche l'Italia, possiamo prevedere una evoluzione in meglio, però tutto ciò deve essere supportato, corroborato da coraggiose riforme strutturali, proprio perché in questo momento appunto il potenziale di bassa crescita. Much too low, and Italy, of course, is part of this low growth potential situation. Ecco, ministro Trichet, che cosa potrebbe andare storto? Nel senso che ancora abbiamo un problema con la Grecia, per quanto adesso tra venerdì e lunedì dovremmo essere in grado di capire se l'Unione Europea darà lo stanziamento previsto, i 5 miliardi previsti, e c'è ancora, a nostro avviso, una timidezza da parte di Bruxelles nel partire con politiche più espansive, politiche di investimenti, politiche di crescita e non solo riforme che vanno bene, ma in questo momento hanno collocato l'area euro come unica area in cui la crescita economica è molto debole, non solo austerity ma anche crescita e investimenti anche pubblici. First on Greece, I would say that we have a very very grave problem in Greece since a long period of time. Sì, dunque per quanto riguarda la Grecia vorrei dire che abbiamo dei problemi molto molto gravi, d'altro canto che risalgono a parecchio tempo fa. D'altro canto la Grecia stessa è stata il punto d'innesco della crisi del rischio sovrano e per quanto riguarda sia l'area dell'Europa ma anche il mondo intero, e sicuramente questi problemi devono essere risolti. E direi anche che il problema principale del governo greco è quello di farsi convincere a creare un programma che sia in grado di diffondere fiducia a livello della comunità internazionale e naturalmente anche della popolazione greca stessa. Quando parlo di comunità internazionale non faccio riferimento soltanto ai paesi amici, quali anche naturalmente l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania che hanno aiutato la Grecia, così come anche altri paesi peraltro emergenti che hanno aiutato la Grecia per il tramite del Fondo Monetario Internazionale. Quindi veramente è importante che la Grecia sia in grado di riacquisire la fiducia da parte della comunità mondiale, internazionale mondiale, tramite il suo piano di ripresa. E io mi aspetto che poi questo sia il punto di arrivo finale delle discussioni in corso. Per quanto riguarda la strategia orientata alla crescita dell'Europa, direi che non è soltanto basata sulla spesa pubblica, perché se dovesse essere così, guardando soltanto come indicatore la spesa pubblica, noi spendiamo di più degli Stati Uniti e quindi di conseguenza dovremmo crescere di più degli Stati Uniti. Però vorrei insistere su un punto cardine, cioè la competitività. Noi dobbiamo essere in grado di far sì che i consumatori del mondo intero apprezzino il rapporto prezzo-qualità molto buono dei nostri prodotti, perché i nostri prodotti hanno un'ottima qualità. D'altro canto alcuni paesi, tra cui in particolare l'Italia, hanno già fatto degli aggiustamenti, delle modifiche miranti a tale direzione. E un altro punto molto importante è la competitività dei costi, anche questa va messa in primo piano. Quindi, ripeto, la soluzione a questi problemi non è basata soltanto sulla spesa pubblica. D'altro canto però bisogna sottolineare il fatto che l'iniziativa intrapresa dalla Commissione europea è una buona iniziativa e riguarda appunto quella partnership pubblico-privato mirante a incentivare gli investimenti, e questo sicuramente è positivo, ma ribadisco il punto fondamentale è dare maggior spazio alla competitività, fare in modo che i consumatori di tutto il mondo apprezzino i nostri prodotti, e l'Italia d'altro canto è un buon esempio perché ha avuto diversi successi con la qualità dei suoi prodotti. You know, domain is absolutely fantastic because the quality price quality is excellent. Questa è la prima parte dell'intervista. Dopo le informazioni sul traffico ascolteremo la seconda parte, in cui abbiamo chiesto in maniera abbastanza, a mio avviso, insistente a Trichet se si possa però immaginare un'Europa in cui si distingue tra spesa, intesa come spesa non produttiva, e investimenti che migliorano la competitività, cioè uscire dal modello tedesco, di cui Trichet fu accusato a lungo di essere uno dei, così, delle vestali, dei propugnatori, dei difensori. Allora, si diceva con Jean-Claude Trichet il piano Juncker che lui prima evocava. Abbiamo fatto presente che il piano è un po' debole, 15-20 miliardi presi da altre destinazioni dovrebbero sviluppare 300 miliardi di investimenti, e che il patto di stabilità europeo resta un po' stupido, nel senso che non distingue nel deficit, nel tetto del deficit al 3%, tra spese, per esempio quelle per la burocrazia, gli sprechi, l'inefficienza della pubblica amministrazione, e gli investimenti, cosa che qualunque imprenditore sa distinguere quando fa una spesa o fa un investimento. Investimenti significa infrastrutture, ma anche infrastrutture di carattere tecnologico, cioè rendere più competitiva l'intera area euro. Ecco, abbiamo chiesto in primo luogo se non sia un po' modestino il piano Juncker, che si immagina di mobilitare 300 miliardi di investimenti privati mettendone solo 15-22 di investimenti europei. I think we have to accept that the borrowing that the various countries are doing are you know the same euros. Bisogna accettare una, come dire, un'affermazione, e cioè che i prestiti richiesti dai paesi sono poi gli stessi euro. Cioè, per quanto riguarda la spesa, lei ha assolutamente ragione, sono d'accordo. La spesa potrebbe da un lato aprire la strada alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, oppure in alternativa, d'altro canto, potrebbe anche invece aprire la strada alle difficoltà. Però sta al singolo paese riuscire ad ottimizzare appunto la spesa. Vede, dal punto di vista del prestatore internazionale, se un paese chiede un euro, si assume l'obbligo di rimborsare questo euro, quindi deve onorare l'impegno che si è assunto. Quindi, ancora una volta, quello che lei ha detto, lo ribadisco, è vero, sono d'accordo, ma sta tutto all'impegno dei governi nazionali. Sta a loro ottimizzare la spesa ed eliminare le spese che sono improduttive, e d'altro canto ce ne sono molte, lo so, lo ammetto, nel mio stesso paese ci sono molte spese improduttive, e certamente con il risparmio che se ne potrebbe conseguire i paesi potrebbero invece focalizzarsi sulle spese che sono produttive. Ma ancora una volta sta ai singoli governi e ai singoli parlamenti. Non bisognerebbe per questo cambiare le regole, lo ribadisco, dal punto di vista dei prestatori di denaro gli euro sono gli stessi. Because seen from the lender, these are the same euros. And they are of course expecting that they would be spent in the best fashion possible. Sì, però vorrei anche una risposta sul piano Juncker, perché un piano che con 22 miliardi presi da altri fondi pensa di svilupparne 300 miliardi di investimenti privati, a me sembra un po', mi passi il termine, un po' fuffa, un po' così, una grande ambizione. Again, I think that it goes in the right direction. Ancora una volta, io credo che si sia imboccata la direzione giusta, ma staremo a vedere se poi le cose funzionano. Nella misura in cui il punto di vista degli investitori privati a lungo termine cambia, e cambia nel senso di vedere nell'Europa la terra della crescita, e spero che sia così, allora il leverage ratio, che in questo momento potrebbe essere visto come troppo elevato, potrebbe invece apparire più ragionevole, ma questo dipende appunto dal sentiment degli investitori a lungo termine, nonché dalla credibilità del denaro pubblico. Il denaro pubblico c'è per assumersi l'equity risk, anche se insomma spero che non sia questa la situazione. Ancora una volta lo ribadisco, staremo a vedere, però bisogna essere pragmatici. Io, a dire il vero, sono più ottimista rispetto a lei, ma quello che veramente conta è quello che faranno i singoli paesi. Dovranno appunto eliminare gli investimenti e le spese improduttive e invece investire il denaro pubblico nelle nuove infrastrutture, anche nelle nuove tecnologie. Lei ha correttamente citato il digitale e la banda larga. E proprio così bisognerebbe eliminare le spese e gli investimenti improduttivi e focalizzarsi in queste aree. Però vede, eliminare gli investimenti e le spese improduttive costa. Perché? Perché collegati a questi ci sono delle rendite, e quindi se questi vengono eliminati sorgerebbero delle proteste. Ci vuole del coraggio politico. And productive money and you have protest. So what we need is political courage in all countries. A me non piace guardare al passato, però questa domanda può riguardare anche il presente. Quando lei era presidente della Banca Centrale Europea tenne i tassi alti, anche ci fu l'ultima manovra, se non ricordo male, nell'estate del 2008. Perché la sensazione che noi avemmo è che la Banca Centrale Europea, a trazione Bundesbank, sostanzialmente aveva come ossessione l'inflazione, e qui non voglio tornare alla Repubblica di Weimar e a vecchi ragionamenti, ma insomma tanto fosse l'ossessione per l'inflazione che non ci si rendeva conto che la situazione invece era totalmente diversa. Un'ossessione per l'inflazione che è durata, devo dire, anche negli anni successivi. È sempre facile fare la storia con i sei e con i ma, ma se tornasse indietro, cambierebbe approccio? You have a very good question, of course, and I will not surprise you. I think I would do the same for the following reasons. Direi che è veramente ottima la sua domanda e rispondo brevemente. Farei esattamente la stessa cosa e credo proprio di non sorprenderla dicendo così. E ci sono dei motivi. Prima di tutto, noi dovevamo affrontare una crisi, l'abbiamo fatto in modo duro e anche coraggioso. E questo naturalmente perché diciamo che si era instaurata questa crisi appunto nell'agosto del 2007 e sono state adottate delle misure non standard a seguito della crisi Lehman e di fatto è stato avviato il piano dell'S&P appunto con l'acquisto di titoli di Stato. Quindi dal punto di vista del coraggio della Banca Centrale Europea direi che non ci sono dubbi, anche per quanto riguarda la Bundesbank e l'influenza della Bundesbank bisognerebbe ricordare che io ho portato alle dimissioni di due cittadini tedeschi di alto profilo che d'altro canto erano anche miei amici. Noi avevamo una policy ben precisa da perseguire e cioè dovevamo innanzitutto attenerci al mandato che ci era stato dato, vale a dire stabilità del prezzo senza inflazione ma anche senza deflazione. Quindi insisto, dovevamo avere una stabilità del prezzo anche senza la deflazione e la norma era appunto il 2% medio annuo di inflazione rispetto a tutti gli anni precedenti. Attualmente il mondo è diverso rispetto al mio mondo di allora. Attualmente noi siamo posti di fronte alla potenziale minaccia dell'arrivo della deflazione e in tutti i paesi ad economia avanzata attualmente la definizione di stabilità del prezzo è la stessa, cioè 2% senza inflazione e senza deflazione ed è così in Giappone, Stati Uniti, Regno Unito e Europa appunto. Quindi non si può parlare di ossessione sulla stabilità del prezzo. A volte si parla in questi termini in Italia e in Francia, ma è sbagliato. D'altro canto noi abbiamo raggiunto un consenso a livello mondiale sul fatto che non dobbiamo arrivare a situazioni di inflazione e di deflazione. E se così sarà potremo promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro. It is certainly something which is very important for future growth and job creation. Un'ultima domanda, Mr. Trichet. Però il fatto che l'area euro sia quella che cresce di meno, sia quella dove c'è la deflazione, sia quella però dove il deficit è intorno al 3% e c'è questa ossessione sul deficit, non porta qualcuno a dire, non so se sia solo l'austerity, ma che qualcosa abbiamo sbagliato come politiche europee, quindi anche politiche della Banca Centrale Europea, come dato di fatto. We have to differentiate the conjuncture and the structure, if I may, the structural problems. Dunque, bisogna fare una differenza tra quelli che sono i problemi di natura congiunturale e quelli che sono problemi invece di natura più strutturale. Se ancora una volta potessimo avere la ricetta giusta per risolvere i nostri problemi basata soltanto sulla spesa pubblica e la gestione del deficit, beh allora, come ho già detto prima, sicuramente saremo sulla strada giusta per la creazione di crescita e di posti di lavoro. Però per l'appunto non è così, perché noi abbiamo una delle spese pubbliche tra le più alte, parlo almeno dell'ambito dei G7, abbiamo avuto dei casi di deficit pubblico giganteschi nell'area euro, non dico in tutta l'area euro, quantomeno in alcuni paesi della stessa, e abbiamo pagato a caro prezzo, perché effettivamente noi abbiamo dovuto far fronte non solo alla crisi finanziaria, come d'altro canto anche gli Stati Uniti d'America, bensì anche alla crisi del rischio sovrano, e questa invece è stata limitata all'area dell'Europa. Insomma, je ne regrette rien, potremmo dire col francese di Trichet, non rimpiange nulla, ha fatto tutto quanto bene. E va bene, era importante anche chiedere di sentirselo dire dall'ex presidente della Banca Centrale Europea. Noi, come avete capito, la pensiamo in maniera diametralmente opposta. Comunque, è tutto. Domani Focus Economia torna dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.